Τα σκύλια. Non è vita. La vita non è vita. Me l'hanno scritto tutti. E più di tutti quelli che comandano. Con una forma, l'esperienza che vita qui dentro, potremmo parlare di un ciclo continuo di accumulo scarico della tensione. L'insorgenza a intervalli regolari del bisogno di cibo, calore, riposo, provoca un aumento della tensione che si scarica quando questi bisogni primari vengono soddisfatti, riportando l'organismo in uno stato di quiete. Come per il neonato, anche per i miei 7 tesori, i pasti sono stati il momento culminante della giornata. L'assunzione di un bene cancella la spiacevole sensazione della fame, ma c'è di più. Il bambino durante la poppata vive un'esperienza unica, intima relazione con la madre, primitiva forma di conoscenza. Veicolo d'amore. Prima forma di organizzazione sessuale, il cibo, come ci insegna la psicologia, è tutto questo. Questo è stato il mio compito, occuparmi della vostra poppata. Il vostro compito invece era assai più complesso. Studiare il futuro dell'economia capitalista mondiale. Ah, non è stata certo una passeggiata. Con l'incarico, tra l'altro, di redigere un rapporto che identificasse le minacce che pesano su questo sistema e che raccomandasse delle strategie concrete di cambiamento. Ma so bene che il vostro contratto prevedeva che il rapporto dovesse rimanere strettamente confidenziale, perché questo vi ha permesso di lavorare in assoluta sincerità, di essere imparziali, di rifiutare le idee preconcette, di non farmi influenzare dai sentimenti, in modo da giungere a dei risultati senza la paura di ritorsioni personali quale diffusione del rapporto avrebbe potuto scatenare. E il contenuto è troppo importante per correre questo rischio. Ma devo confessare che per quello che mi riguarda rimarrò per sempre il desiderio di conoscervi, di stringervi la mano almeno una volta, e senza questo muro che ci ha diviso in questi mesi, di dare un volto alla vostra voce. So bene che mi state guardando in questo momento, che siete tutti assenti qui stasera. Chi siete? Voluntariamente la loro autorità. Queste sono le domande le regole. Thank you. E semplice. Non vuole nemmeno quello di burro. Guai, guai. La sua colazione deve essere un mezzo bicchiere d'acqua tiepida con una fetta di pane. Come nudo era Gesù quando è nato nella grotta. È grazie a lui che ho capito che il mercato può essere per alcuni fonte di sofferenza e che le sue soluzioni possono sembrare aspre o persino crudeli. Eppure non bisogna mai dimenticare che Dio è assolutamente buono e non permetterebbe mai che ci fosse del male nelle sue opere se non fosse così tanto buono, così tanto potente da trarre del bene anche da questo stesso male. E il mercato è così vicino a Dio in tutta la sua vasta gamma, è portato, è saggio, è armonioso e come Dio è in grado di trarre del bene da un male apparente. La distribuzione trae il miglioramento del genere umano e il massimo equilibrio possibile per il tutto. Se io non mi fossi ridotta in quello stato, non mi sarei trovata a vivere su quella panchina e probabilmente non avrei mai lavorato per loro. Da un male è scaturito un bene, dall'inferno al paradiso in un attimo. Ovvio che poi ci vuole anche certo talento per secondare la fortuna. Non so quanti di voi avrebbero resistito all'impatto iniziale. Abbordata, mi trovavo in uno stato di ubriachezza molesta da una sconosciuta, di cui non ricordo assolutamente nulla, e catapultata in un paese all'estero. Una villa meravigliosa, sì, ma completamente isolata dal mondo. Ci sono delle persone, io non posso vederle, che comunicano con me tramite computer e citofoni. Vietato fumare, scritto a caratteri comunitari ovunque. E su quella che poi diventerà la mia scrivania trovo un manuale di cucina internazionale, la guida turistica della Svizzera, un corso completo di lingua in 52 audiocassette, la Bibbia e il libro Come avere successo nella vita. Voi cosa avreste fatto? Listen and repeat. Listen. Thank you. formazione darà un valore alla presentazione dei pericoli che attendono il mondo. Ma non hanno mica capito subito nulla. Ci sono voluti mesi. Eppure, basta ascoltarlo con attenzione. È parso subito evidente anche a me che un possibile futuro economico che tenga conto dei limiti della biosfera dipende dal numero della popolazione mondiale, dalla natura, qualità, quantità dei consumi e dal raggio di quanto sia, correggimi se sbaglio, dalle tecnologie utilizzate per produrre i beni consumati ed eliminare i rifiuti creati. E la variabile C, c'era da aspettarselo, è particolarmente legata al reddito. I consumi pro capite medi di un francese sono 5 volte e mezza quelli di un egiziano. Un cittadino della Germania consuma 17 volte più di un cittadino dell'India. E uno statunitense consuma 35 volte più di un tanzaniano, e così via. Ma è solo un dato di fatto. Le organizzazioni umanitarie poi si esprimono con indignazione riguardo alla differenza dei consumi tra il nord e il sud del mondo. Ma il loro sdegno mi ha riposto. E sì, perché in un'economia di mercato globale, se uno svizzero consuma 17 volte più di un nigeriano, la sola risposta possibile, razionale, parole povere, e allora gli svizzeri sono altamente produttivi, hanno una popolazione stabile, un alto tasso di risparmio e le loro fortune non dipendono né da saccheggi né da colonialismo. D'altro canto, se i nigeriani non investono, non risparmiano, non aumentano la loro produttività, l'unico sistema che rimane ai nigeriani per essere più ricchi e aumentare i consumi è che ci siano meno nigeriani. Wait. materiali a tutti coloro che ne prendono parte. Su richiesta si praticano aborti, sterilizzazioni con metodi sicuri, mentre i contraccettivi vengono distribuiti gratis da centri sanitari collocati in posizione strategica. I bambini che nascono sono amati e voluti. Fertile invece è apparentemente governata dai grandi proprietari terrieri. In realtà il potere è nelle mani di un clero tradizionalista, secondo cui la natura deve fare il suo corso, cosa che naturalmente avviene. A 40 anni dal giorno dell'indipendenza, la popolazione in età lavorativa di Fertilia è 4 volte quella di un tempo. Con così tanti bambini da allevare, sarebbe difficile migliorare lo status quo in qualunque circostanza. Se la popolazione aumenta del 2% all'anno, significa che ogni anno dobbiamo aumentare del 2% ospedali, scuole, medici, insegnanti, macchinari industriali, posti di lavoro e così via, ma niente di tutto ciò accade. Il terreno coltivabile si è ridotto accaparbiamente di crescere del 2%, ciò significa una cronica disoccupazione nelle campagne e una massiccia migrazione verso la capitale infestata dalla malattia. Le persone spendono i pochi risparmi per la supervivenza immediata, quindi non solo ci sono pochi risparmi, ma anche la quota in tasse è risibile, così che lo Stato investe poco nelle infrastrutture. Le scuole hanno da tempo abbandonato l'idea di diffondere un sempre minimo grado di alfabetismo, le ragazze non ricevono praticamente alcuna istruzione. Fertilia si trova nello stato di non produrre il raccolto necessario per sfamare tutta la popolazione e si vede costretta ad importare una quantità di cibo che aumenta di anno in anno. Il fardello del debito estero è molto pesante. La vita è un disastro. Sterilia invece ha mantenuto costante la popolazione in età scolare e migliorato il sistema scolastico. Tutte le persone sono colte, competenti, possono svolgere una vasta gamma di lavori anche complessi, che lo stesso vale per le donne, che hanno seguito un normale corso di studi e non fanno più figli con quelli che desiderano. L'investimento e il risparmio hanno permesso un processo di ammodernamento, un sistema sanitario e le infrastrutture sono state migliorate. Chi abita in campagna ha un lavoro decentemente pagato nel settore agricolo oppure nella fattoria di proprietà e la produzione di alimenti non è un problema. Inoltre la migrazione dalla campagna alla città è moderata, l'ambiente cittadino è gestibile, la vita non sarà un paradiso ma si sta sicuramente meglio che a Fertilia. Tuttavia, senza dubbio prendere in considerazione. Ma il gruppo di lavoro era assicurato dal fatto che l'era delle grandi opposizioni politiche, dei forti movimenti di solidarietà con il Vietnam. È finita. E se queste guerre si mostrano come battaglie condotte da poveri, con strategie politiche confuse, massacri in apparenza ciechi, si può sempre lasciar sottintendere che ciò avvenga tra barbari, selvaggi, e che il mondo civilizzato considera questi conflitti come pietosi, infantili, insolubili. Per quello che riguarda le organizzazioni umanitarie, i governi del nord dovranno invece accontentarsi di agire tramite loro, sostenendo attivamente le loro attività, in quanto salvare 50 persone davanti a delle telecamere può costituire una cortina di fumo molto pratica per eliminarne 50.000, tanto più che queste missioni rafforzano l'immagine delle vittime come incurabilmente deboli e incapaci di risolvere i loro problemi. Un altro Iraq o altro, non bisogna. equilibrata e preparata a missioni di combattimento adeguate. Inoltre ti invita a considerare la creazione di forze di sicurezza private. Saranno solo i clienti di questo vero truppe da combattimento e non ti azzardare a usare quel cazzo di la esclusiva Ocanza in Africa del Sud. E se lo so, magari lo so solo da scena. In Nordamese la roba da qualcosa. Anche se questa società rappresenta solo lo stato embrionale di ciò che bisognerebbe raggiungere, i vantaggi sarebbero numerosi. Questi eserciti privati costituirebbero altrettanti sbocchi per i giovani ribelli, disoccupati, spesso violenti. Inculcherebbero la disciplina, gli darebbero qualcosa di socialmente costruttivo da fare. Non sarebbero disturbati nelle loro azioni dai sistemi legislativi e il loro lavoro verrebbe svolto in maniera rapida, efficace e precisa. Sarebbero in concorrenza tra loro per il reparto e costerebbero infinitamente meno rispetto alle attuali strutture militari. In quanto la perdita di vite umane, non dovremmo assistere ai movimenti di opinione come se ne vedono oggi alla morte della mia regola. Questi soldati avrebbero la scelta altamente capitalista di morire per la giusta causa, nella più totale indifferenza. Più economia, meno problemi. Me la posso fumare questa sigaretta. Fumare una sigaretta, il principio della fine, il demonio, tutti i miei peccati in un'unica lucana di fumo, bestia! Accendere una sigaretta significherebbe ricominciare tutto da capo, annullare il percorso fatto fino a qui, risvegliare la bestia. E lo so, Brunella, lo so. Ma il lupo perde il pelo, non il giudizio. I vostri metodi sono stati veramente efficaci. Ma dentro di me, da qualche parte, in fondo, è rimasto qualcosa. Un desiderio, un pensiero, almeno fumare. Resistenti, insomma, le assumendo a lungo termine, dimmi deve giungere sul mercato poco prima o nello stesso momento delle raccolte locali. E se questo apporto giunto dall'estero è sufficiente, i prezzi crolleranno per i contadini locali, portandoli direttamente al fallimento. Inoltre, un altro mezzo di complemento che può causare una vera emergenza di carestia combinato dei conflitti può essere molto efficace. Per esempio, le malattie. È vero che la malattia non si usa sempre per il povero, ma stare sistemi di parlando colpisce principalmente i più vulnerabili. È vero che le malattie si curano, ma i laboratori farmaceutici funzionano secondo le leggi del mercato. Ma nessuna roba deve investire in medicinali per curare le malattie dei paesi poveri. Ma com'è? Malattie esotiche, ma bisogna incoraggiare il loro sviluppo. Dovrebbero impedire il caos e il disastro totale. Inoltre, sperano che la vostra capacità di azione sia all'altezza della loro lungimiranza. Come non restare a salutarvi e augurarvi un buon proseguimento e andare incontro al futuro. It's really difficult to say what makes of this city so fascinating place. The exceptional mild climate and the luxury of plants, trees and flowers seem to cast a spell on every traveler on the ground. The same can be said of the atmosphere of luxury and wealth. Streets of the town center display shops, art galleries, temporary exhibitions, and new architectural styles that welcome the travelers. The city lies on the western shore of the lake, and the view is beautiful from the surrounding mountains. Tutta la sua parte.